just a simple man working on the land. Oh, it ain't easy. I am just a simple man working with my hands. Oh, believe. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ancora ospiti questa settimana dalla Ravennate, ci è venuta a trovare una formazione che stasera ci presenterà il suo disco. A voi la parola, ragazzi. Ciao a tutti, siamo i Super Lovers e questa sera siamo qui che presentiamo il nostro disco On The Road To You. Io sono Davis, la voce. Fabio Busti alla chitarra. Live batteria. E manca Francesco, il bassista, Franz. E con i Super Lovers, una prima parte tra rock inglese e americano degli anni 70, con alcune formazioni tra le più amate di quel periodo. Prima canzone era di Bad Company, dal titolo Simple Man, inclusa nel disco Run With The Pack del 1977. Formazione storica che vede oltre a Paul Rogers anche Mick Ralphs e Simon Kirk, e che ha inventato una formula musicale diretta di successo. Che ne pensate? Sono sicuramente una grande band. Probabilmente non una delle nostre principali influenze, comunque è sempre bello poter sentire dei pezzi così importanti per la storia musicale. I Super Lovers sono assieme da 2 anni, ma siete già arrivati all'incisione di un disco. Come vi formate e perché avete scelto questo nome? Per quanto riguarda la scelta del nome, ti passo la palla a Davis, il nostro cantante. Prego, Davis. Cerchiamo un nome ruffiano e anche un po' presuntuoso, e siccome cantiamo l'amore in tutte le sue varie forme, Super Lover miscela un po' tutte queste cose, quindi super amante, invincibile dell'amore, ma anche ferito, e si sentiranno i pezzi, insomma. Andiamo avanti con gli Steely Dan, band ideata da Donald Fagen e Walter Becker. Prosegue da tanti anni una miscela musicale che coniuga soft rock e influenze jazzate. Nel 1972 il disco di debutto Can't Buy a Thrill, da cui ascoltiamo la canzone Midnight Cruiser. Storia lunga e fatta di tanti cambi di organico, ma autrice di una musica particolare e raffinata. Cosa ne pensate voi? Sound incredibile. So che hanno influenzato anche moltissimi musicisti jazz. Sono dei cambi armonici molto particolari. È un po' un rock diverso dai soliti schemi. Certo. Hanno sicuramente tracciato un solco, hanno inventato un sound. Sicuramente insegna il fatto che hanno continuato questa strada per tantissimi anni, chiaramente con dei cambi di formazione, però insomma l'idea tanto di cappello, ecco. Vostre esibizioni come sono andate e quali le impressioni che avete raccolto dal pubblico a fine concerto? Le date sono andate molto bene, superiori alle nostre aspettative sia in numero che in feedback. abbiamo avuto la possibilità di suonare i nostri pezzi. Non sempre la gente li conosceva, chiaramente, perché sono pezzi inediti, insomma. Sono tutti inediti, molti avevano già il CD, avevano sentito i pezzi su MySpace. Comunque i feedback sono sempre stati ottimi, abbiamo sempre fatto dei bis. Bene, dai. Grazie anche magari al contatto col pubblico, Davis è molto bravo in questo, quindi è importante, insomma, ci aiuta, avere sempre un contatto col pubblico. Giusto, Davis? Sì. Può confermare lui. Let's rock. Ecco. Concludiamo allora dunque questa prima parte con i Doobie Brothers, forti di dischi di platino ottenuti negli anni 70. La band americana ha saputo creare una musica che piace anche ai nostri giorni. Dal disco The Captain del 1973, il brano China Grove. A dopo per la seconda parte. We'll be right back.